Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. In regia la parte tecnica abbiamo oggi Carmelo Lauricella, mentre in redazione Laura Vanossi. Oggi una puntata tutta dedicata alla cocaina. Inizio con qualche dato, poi lo commenteremo insieme ai nostri ospiti. Secondo il rapporto 2009 dell'Osservatorio Europeo sulle droghe, si conferma la diffusione costante della cocaina. I dati dicono che sono 13 milioni gli europei adulti ad averla provata nella loro vita, e poi i dati dicono ancora che 7 milioni e mezzo sono giovani, quindi di età compresa tra i 15 e i 34 anni, e 3 milioni di questi l'hanno usata negli ultimi 12 mesi. E il nostro paese si conferma uno di quelli a più alta prevalenza, e siamo in compagnia della Danimarca, della Spagna, dell'Irlanda e del Regno Unito. Insomma, la polvere bianca sembra essere la sostanza stimolante illegale più popolare in Europa, mentre sembrerebbe diminuire la popolarità dello spinello. Insomma, la fotografia che esce da questo rapporto è quella di un'Europa avvolta da una coltre di cocaina. E allora viene naturalmente spontaneo farsi delle domande: perché è così diffusa, cosa succede a chi la usa, che tipo di dipendenza provoca e soprattutto quali danni, e cosa può fare chi ne rimane invischiato per uscirne. Oggi avremo la possibilità di raccogliere le vostre esperienze, le vostre testimonianze, se avrete piacere di raccontarcele, ma soprattutto di confrontarci, perché sulla cocaina se ne dicono e se ne sentono un po' di tutti i colori. Ciascuno di noi si è fatto un'idea di questa sostanza, e quindi mi piacerebbe confrontarmi con voi e soprattutto con i nostri esperti. Vi dico subito e vi ricordo il nostro numero verde, che è attivo, 800 24 00 24, i messaggi al 349 238 6666. Oggi tutti in studio con me ho il professor Carlo Lavecchia. Professore, finalmente benvenuto. Grazie, buongiorno. Allora, il professor Carlo Lavecchia è del Mario Negri di Milano e dell'Università di Milano. Insieme al professor Carlo Lavecchia abbiamo il professor Alfio Lucchini. Buongiorno. Buongiorno. Devo dire una new entry a essere benessere, che è presidente nazionale della FederSERD, che è la Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze. In studio una garanzia, Alberto Pellai, che è tornato a trovarci. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, io inizierei, professor Lucchini. Abbiamo dato dei dati dell'Osservatorio Europeo sulle droghe e ci fanno vedere una situazione, fotografano una situazione che sembra allarmante, e la sostanza sembra, no, avere contatti sempre più quasi contagiosi, sembra correre. Si era parlato un tempo, mi ricordo un'intervista con il professor Garattini, tra l'altro professor Lavecchia, quando si parlava del fiume, del Po e della cocaina. Adesso vengono usate altre similitudini, insomma la coltre. Ma c'è davvero questa emergenza? Sì, direi che il rapporto annuale dell'Osservatorio dell'Unione Europea, l'Osservatorio di Lisbona, conferma quanto già detto anche dalla relazione annuale al Parlamento che in Italia abbiamo appunto annualmente sul fenomeno droga. Indubbiamente la vera novità degli ultimi anni, almeno degli ultimi 7-8 anni, per quanto riguarda la crescita di consumatori in Europa, è proprio la cocaina. Diciamo che è una droga assolutamente trasversale, è una droga che non viene vissuta come tale, è una droga che è estremamente permeabile nella società, e questo ha portato a un aumento sostanziale del consumo. Oltre a queste rilevazioni epidemiologiche, ve ne sono altre, gli studi che vengono fatti sulle classi di studenti, che vengono fatti anche nella popolazione generale. Ecco, queste confermano, diciamo, questo trend in ascesa del consumo di cocaina. E devo dire anche che vi è un aumento considerevole di giovani e meno giovani che si rivolgono ai servizi per le dipendenze, e qui ovviamente stiamo parlando di un'altra categoria di situazioni, che è quella in cui le persone hanno già dei problemi consistenti. Pensate che negli ultimi 10 anni sono duplicate le persone che si sono rivolte ai servizi per problemi legati alla cocaina. È giusto anche subito dire che la cocaina spesso va da sola come consumo, sì, ma molto spesso si accompagna anche ad altre sostanze. La sostanza alla quale si accompagna diciamo più frequentemente è l'alcol, ecco, e questa è l'evidenza che poi noi vediamo in situazioni anche abbastanza difficili. Professor Lavecchia, sembra una domanda banale, ma che cos'è la cocaina? Io credo che sia importante dare un po', entrare poi dentro a questa sostanza per capire poi tutti i meccanismi, i danni nel breve, nel lungo periodo che provoca. La cocaina è una sostanza naturale, un alcaloide naturale estratto dalle foglie di coca, che è una pianta che cresce essenzialmente sulle montagne delle Ande e che è stata usata per centinaia di anni dalle popolazioni andine per vincere la fatica di una vita a altezze così elevate. Però le popolazioni andine essenzialmente la masticano e quindi l'effetto che fa è ridurre il dolore e la fatica, mentre l'uso che viene fatto come droga è essenzialmente sniffata, ossia aspirata per via nasale oppure fumata, e in questo caso dà dei picchi ematici molto rapidi e quindi dà delle sensazioni di eccitazione molto rapide che durano in realtà poco, durano un quarto d'ora, mezz'ora. Quindi la farmacocinetica è completamente diversa per l'uso fatto nei nostri paesi. Arrivano già dei messaggi che devo dire già mi aspettavo, e infatti che numerosi ascoltatori ci invitano a fare un confronto tra la cocaina e altre sostanze. La coca eccita, ci scrive Alberto, l'alcol stordisce e fa danni peggiori. Professor Lavecchia. Sì, il problema è... Adesso però abbiamo visto che coca e alcol vanno a braccetto, quindi vabbè, comunque. Coca e alcol vanno insieme, anche l'alcol eccita a dosi anche elevate, soltanto a dosi elevatissime poi da sonnolenza e così via. Vengono usate insieme spesso perché l'alcol riesce a prolungare questo effetto di breve periodo di eccitazione che dà la cocaina per azione sui recettori dopaminergici. Quindi vengono usate insieme e questo implica una moltiplicazione dei rischi, perché entrambe le sostanze poi riducono il controllo e quindi anche nel breve periodo si hanno rischi di incidenti o rischi di comportamenti sconsiderati molto elevati. Alberto, tu anche come università hai indagato questo universo, soprattutto focalizzando l'attenzione sui ragazzi, che anche dai dati vediamo ne fanno uso. I dati dicono nella fascia tra i 15 e i 34 anni, quindi un consumo giovane. Sì, la cosa che almeno rispetto alle indagini comportamentali che abbiamo condotto noi in università ci colpiva molto era intanto l'accessibilità alla sostanza, che viene anticipata da accesso ad altre sostanze precedenti alla cocaina, e rimaniamo molto colpiti dal fatto che in ogni classe di scuola superiore ci sia da uno a due studenti che comunque prima di fare l'esame di maturità dice personalmente l'ho sperimentata. Ma oltre al dato dello sperimentatore, almeno per noi che facciamo prevenzione, per chi è un educatore, è molto preoccupante il dato che nel tuo gruppo di riferimento, nel tuo contesto sociale, tu conosci così tante persone che ti dicono per me è un'esperienza già fatta. Andiamo a Marco che ci chiama da Verona all'800 24 00 24. Marco, buongiorno. Buongiorno. Io volevo portare un attimo la mia esperienza. La ringrazio. Sollevare alla riflessione anche chi ascolta, ma anche e soprattutto l'aspetto dei media. Io quando ho 33 anni, sono stato in diverse occasioni, spesso frequentavo discoteche a 20 anni, dove c'era un buon giro di questo tipo di stupefacenti, soprattutto cocaina. Io vi posso garantire che allora, al tempo, niente di 13 anni fa, sono passati tanto tempo, chi faceva uso di droga non era il bullo, il bello, il bravo, a mio avviso, quello che io percepivo. Sì. Anzi, era tutt'altro, consentitemi in termini, più forse un sfigatello di turno. Sì. Di fatto, però, poi è subentrata un po' l'informazione, è subentrata questa visibilità di chi fa uso di cocaina, mi sembra. Anche oggi i politici, i VIP, della gente dello spettacolo che ne fa uso, a mio avviso è apparso questo segnale che chi fa uso di cocaina sembra in effetti essere più bravo, più bello e più avere più successo degli altri. volevo appunto invitarvi a riflettere quanto sia dannoso a volte mettere in visibilità alcuni aspetti. Ad oggi, di fatto, dopo 15 anni, mi sembra di capire che chi non ne fa uso è diventato lo sfigato, chi ne fa uso invece è bravo e comunque ha visibilità, perché nel gruppo di persone che conosco ci c'è una piccola cerchia di persone, sono circa 10-12 ragazzi, anche di 17-18 anni, che ne fanno uso costantemente, regolarmente, e tra di loro sembrano essere i divi della nostra compagnia, praticamente, del nostro gruppo, anche se io non ho frequenze dirette con questi certo. ragazzi. E sono anche un po' preoccupato, perché avendo due figli, uno di 5 e uno di 7 anni, non so neanche da che parte cominciare per evitare che a quell'età o prima ne vengano a conoscenza o ne vengano a contatto diretto. Grazie Marco per questo spunto. Professor Lucchini, ma voglio coinvolgere anche gli altri miei due ospiti. Marco ci aiuta a fare una riflessione importante. È proprio nel tipo di sostanza, cioè negli effetti che dà la cocaina, l'idea che la sostanza che rende, come diceva Marco, fighi, forti, insomma la sostanza del vincente? Ma io ringrazio Marco prima di tutto per una considerazione che è importante. Lui citava una realtà delle discoteche anche di molto tempo fa, e in effetti è così. La cocaina è il prototipo delle sostanze eccitanti. Spesso si parla di altre sostanze, anfetaminici, metanfetaminici, estasi, eccetera, però diciamo che se noi andassimo al fondo, ecco, dei consumi, è la cocaina la sostanza eccitante principe. Sì. Ed è indubbio che un utilizzo di cocaina, come posso dire, serve a sentirsi più integrati, più forti, a sentirsi più attivi, a poter, come posso dire, andare oltre alle difficoltà delle proprie emozioni con comportamenti un pochino giganti, un pochino ipertrofici, e indubbiamente questo, specialmente nelle fasi adolescenziali, Marco si riferiva a giovani, ecco, può inserirsi molto bene in percorsi, tra virgolette, di crescita che i giovani devono fare. Per cui è indubbio che in determinate situazioni, in realtà della vita, l'effetto della sostanza, qui stiamo parlando di una sperimentazione, di un consumo, tra virgolette, limitato, possa, tra virgolette, ancora aiutare. Il problema è tutto quello che poi può conseguire da certo. un utilizzo invece prolungato di una sostanza come la cocaina. Professor Lavecchia, dai messaggi vengono fuori tanti luoghi comuni, ad esempio che la cocaina non dia dipendenza, soprattutto perché, come mi suggerisce un ascoltatore, se ne fa uso saltuario nei weekend. Ma come tutte le sostanze di abuso, dà dipendenza forte in un sottogruppo di utilizzatori, dà dipendenza meno forte nella maggior parte. Ma questo vale anche per il tabacco. Ci sono molti fumatori di sigarette che fumano la prima sigaretta nella tarda mattinata o nel pomeriggio. Chiunque stia dalle 10 di sera a mezzogiorno senza fumare in realtà non è dipendente dalle sigarette, dalla nicotina, ma ha una dipendenza psicologica. Quindi anche coloro che usano la cocaina nei weekend, perché noi abbiamo visto con queste ricerche sotto Mario Negri nei fiumi, che lei ha già menzionato, che c'è un picco nei weekend, quindi c'è una fascia di utilizzatori che usano la cocaina soltanto alcuni giorni della settimana, ma anche questa è una dipendenza, perché chiunque spesso il sabato e la domenica si senta spinto a usare una droga è soggetto a una dipendenza quantomeno psicologica. Il problema maggiore è che però c'è un sottogruppo che non è trascurabile di utilizzatori che arrivano a depletare i propri recettori alla dopamina, come abbiamo detto, e quindi hanno un vero e proprio craving, un bisogno estremo di utilizzo della sostanza, e ricorrono ai cosiddetti binge, cioè continuano a utilizzarla sempre di più, dopodiché hanno una vera e propria sindrome da assenza di dopamina, per cui diventano sonnolenti, diventano estremamente atonici e così via. Quindi c'è una fascia di utilizzatori che diventano dipendenti della sostanza, come per tutte le droghe, ma anche coloro che ritengono di non esserlo. Se continuano a usarla, di fatto lo sono, se non sul piano fisico con una sindrome d'astinenza acuta, sul piano psicologico. Andiamo a Roma, ci chiama Andrea all'824 0024. Andrea, buongiorno. Buongiorno a voi. Senta, io ho 19 anni e quindi sono nel mio pieno percorso adolescenziale. Ho finito la scuola superiore e mi sto avvicinando al mondo universitario. Sì. Nel mio giro di amicizie è molto presente la droga e in particolare purtroppo la cocaina, in quanto purtroppo, come dicevate prima voi, viene vista anche come uno strumento di crescita, un passaggio quasi obbligato che il giovane Andrea fa. Andrea, scusa, ti richiami, no, devi, Andrea, sì? Devi spegnere, devi abbassare la radio o spegnerla, tanto ci sentiamo. Già fatto. Allora Andrea, stai lì, anzi metti giù che ti richiamiamo, che così ti sentiamo meglio, perché abbiamo un rumore di sottofondo. Alberto, però Andrea ci dice, l'avevamo già in parte anticipato, tra i ragazzi ha la cocaina, l'immagine di la sostanza che ti dà l'aria del vincente, no? Sì, cioè credo che poi la testimonianza di Andrea ci interessi, in quanto lui 19enne è appena uscito dalla scuola superiore e rispetto al fatto che molti ragazzi la utilizzano fondamentalmente con la percezione che ne sono in controllo, va però sottolineato che succede poi qualche cosa in alcuni adolescenti, cioè ne fanno uso al sabato sera inizialmente perché la vogliono sperimentare e poi si trovano automaticamente ad attendere che arrivi il sabato sera per poterne rifare uso, cioè la reinseriscono in una sorta di comportamento automatico per cui non riescono a pensare a un sabato sera senza lo sballo. E un altro aspetto che è molto importante, si è visto anche con la cannabis, è che molti riescono a controllarne l'uso, ma ci sono persone particolarmente vulnerabili anche sul piano psicologico ed emotivo che, scoprendo che con la sostanza performano meglio, si sentono meglio, abbassano il loro disagio, la incascano proprio nel loro stile di vita, nel loro modo di utilizzo, e la utilizzano quasi come un medicamento, e a quel punto in realtà ne diventano dipendenti. Professor Lucchini, lei che insomma è sul campo, che cosa vede? Ci sono delle differenze tra il consumatore giovane e quello adulto? Perché apparentemente rispetto all'eroinomane, il cocainomane ha una faccia assolutamente normale, insospettabile, è vero? Sì, diciamo che differenze ce ne sono. Tra l'altro, da questa sua domanda dobbiamo già appunto definire due fasce di età importanti, perché queste sono le fasce d'età sia dei consumatori sia di chi poi ha dei problemi con la cocaina. Quindi noi nei servizi vediamo, nei servizi delle dipendenze, vediamo delle persone di una fascia dai 16-17 fino ai 24 anni, 25, e un'altra fascia che dai 30-35 arriva anche ai 50 anni e anche oltre. Queste sono le due fasce più significative di persone che si rivolgono a noi. Bisogna anche dire che quando una persona si rivolge a un servizio ha dei problemi di una certa consistenza. Giustamente veniva detto prima, la cocaina, lo dice anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è una droga perfetta, ecco, un po' come l'alcol, ecco. Sono due droghe perfette, cioè delle droghe che possono dare una forte dipendenza psicologica, ma anche una correlazione fisica fondamentale. Ecco, allora sono molto molto diverse le situazioni che si presentano. Sono molto diverse e molto difficili anche poi da affrontare, gestire. Perché è vero che vi sono persone che magari hanno avuto dei problemi di altra natura, problemi relazionali, problemi familiari, problemi legali, per questo si rivolgono ai servizi più che per problemi puramente fisici. Vi sono invece persone che hanno sviluppato una dipendenza, diciamo, conclamata, e allora questa parola magica che noi usiamo, il craving, quindi questa necessità fortissima, richiamo fortissimo della sostanza, diventa proprio, permea proprio completamente la vita delle persone. Questa è una caratteristica proprio essenziale della cocaina, per cui i profili delle persone che si presentano da noi sono assolutamente, assolutamente variegati. È vero, c'è come posso dire, il manager, è vero, c'è il ragazzino, eccetera, ci sono anche persone però distrutte anche fisicamente dalla cocaina, oltre che psicologicamente e relazionalmente. E oggi parliamo di cocaina e insieme a noi si aggiunge anche Antonio, che ci chiama da Torino. Antonio, sì, buongiorno a lei, grazie per... Prego. Mi racconti. Prego, io volevo portare la mia esperienza diretta. Io ho 38 anni e 15 anni fa ho smesso di fare uso di tutte le droghe. Io sono stato un tossicodipendente, maggiormente con l'eroina, però c'era tutto, si è provato tutto. La vera differenza che io trovo, che spesso non viene neanche sottolineata, è che il tossicodipendente 15 anni fa non poteva accedere ai prezzi della cocaina. La cocaina era una droga per ricchi. Sì. Quindi noi si faceva festa, quando c'era quello era proprio una volta al mese, quindi non tanto perché non avesse, diciamo, non fosse più buona delle altre. Adesso però perché non c'era, era troppo cara. Era troppo cara, costava 250.000 lire al grammo, nessuno le aveva, tu con 60.000 lire se te ti compravi l'eroina, tra l'altro poi l'eroina, io parlo in modo più autentico possibile, sì, certo, quindi giusto per arrivare al centro del problema. L'eroina tu facevi, ti facevi una dose e tu per 7, 8, 10 ore, a seconda anche del grado di purezza, tutto, eri a posto, eri appagato, ed era questa mamma così calda, questa coperta così, che poi si rivelava in effetti dannosa. E tra l'altro l'astinenza dell'eroina, diciamo, arriva abbastanza in fretta. Con la cocaina no, con la cocaina non basta mai, perché ti lascia sempre questo stato di sospensione, di insoddisfazione di fondo, di inadeguatezza, cioè che ne vorresti di più. Poi per di più ci sono una serie di, secondo me, leggende, che poi io dico leggende, cioè per esempio la cocaina, si pensa che con la cocaina chissà che macchina da sesso si diventa, non è vero, con la cocaina fa fatica, chiedo scusa la franchezza, ma fai fatica ad avere un'erezione, nel senso che è un anestetico talmente forte. E questo tra l'altro succede quando veramente è cocaina, perché oggi come oggi, io tra l'altro lavoro ancora adesso diciamo nell'ambito del gruppo Abele di Torino, quindi mi occupo in qualche modo ancora a distanza di anni di questi problemi, si trattano, sì. E quello che succede, che viene fuori, è che questi prezzi così bassi con cui tu con 10, 15, 20 euro ti prendi la tua dose, dentro di cocaina non ce n'è neanche, ma neanche col binocolo si vede, quindi sono tutte anfetamine, sono tutte... Antonio, resta con noi Antonio e ascoltiamo insieme un breve estratto e poi capirai perché. Dal produttore al consumatore la cocaina passa almeno per le mani di 10 persone, ovvero il taglio del taglio del taglio del taglio del... Quindi potete immaginarvi cosa vi pippate quando comprate un grammo di cocaina. Taglio del taglio. Il taglio del taglio del taglio. Ma guarda, io ho iniziato a 14 anni. Poi non ho mai smesso. Questa aspetta! Migliaia di ragazzi che si sfondano con MDMA, Special K, Ecstasy, fumo, erba, LSD, funghi, shabu, mescalina, ma quella che spacca più di tutte la chiamano bianca, svelta, poffa, rosa, tiro, ricamo, ricamino, caffè, ammazza caffè, botta contro botta, sbranga, susta, frusta, riga, pista, striscia, bamba, lastra, polvere, danza, musica. In altre parole, cocaina. Ormai ha corrotto tutti voi. Dentro siete cocaina. Allora, quanto ci descriveva Antonio è raccontato nel film Polvere, il suo regista è Massimiliano De Piro, che abbiamo in linea con noi. Massimiliano. Buongiorno. Buongiorno a te. Hai sentito la telefonata di Antonio? Sì, sì. Che praticamente racconta il tuo film. Sì, in parte sì e in parte no, nel senso che mi trovo d'accordo con quello che ha detto lui sul fatto che ormai la cocaina, insomma, è tagliata con diversi elementi che sono specificatamente mannite, lidocaina, oltre alle aspirine, come diceva Antonio, e questo è reale. E il fatto che sia una droga che è cambiata col tempo, si è evoluta insieme alla società, nel senso che se prima doveva rappresentare una classe eletta, in questo momento la cocaina rappresenta la piccola borghesia. Perché costa meno? Non solo perché costa meno, ma proprio perché è fruita in maniera differente da prima. Mentre prima si trovava, cercavano di portare la cocaina come come un elemento di droga pesante, in questo momento la cocaina l'hanno ammorbita, l'hanno resa pop. In questo caso settimanalmente ci sono persone che ne fanno uso e pensano di non essere addicted dalla cocaina, in realtà lo sono uguale, è cambiato proprio il modus operandi. Secondo me la grande differenziazione delle droghe pesanti è anche a livello estetico. Se nell'eroina si doveva utilizzare come veicolo una siringa, il suo ago e il sangue, la cocaina è fruita attraverso un tiro, una riga bianca attraverso il naso, quindi tutto sembra tutto più velato, più moderato, in realtà è una droga pesantissima con degli effetti importanti. Antonio, sei ancora in linea con noi? Sono in linea. Vuoi aggiungere qualcosa, che così poi passiamo la parola? Sì. Non è vero che l'eroina è sempre stata associata alla siringa, perché con la siringa si fa la cocaina, si fa l'eroina, si fa di tutto. Sì, ma non lo fa nessuno. Io per anni ho tirato l'eroina per qualche anno. Poi sono passato, ecco, adesso tra l'altro la cocaina si fuma, c'è un altro sistema per cui con una serie, con una lattina, adesso non so bene come, comunque si fuma e che quindi ha un effetto devastante ed immediato molto più che quello che si ottiene tirando. Professor Lucchini, tra l'altro sì. L'eroina si sì, fuma, è vero? Molto interessante questo dibattito. In effetti c'è un po' un rimescolamento, diciamo, nei modi di utilizzo delle droghe. Questo è anche molto rischioso per i nostri giovani, nello specifico. È vero. Anche l'eroina si fuma e si fuma sempre di più e, come posso dire, dal punto di vista dei rischi immediati, ecco, i rischi dell'eroina anche fumata non sono dissimili da quelli dell'eroina endovena. Quindi per quanto riguarda invece la cocaina, si diceva prima, ha tantissime modalità di utilizzo. È vero, si può usarla anche endovena, ma la utilizzano in pochi, per fortuna endovena, per fortuna tra virgolette, per altri tipi di complicazioni. L'eroina essenzialmente è sniffata, fumata, insomma sono varie possibilità. E mi sembra però un punto centrale quello del mercato che veniva adesso citato. È indubbio che il mercato si è, tra virgolette, sempre adattato ai consumatori, ovviamente, sia nei prezzi sia nel confezionamento dei dosaggi. Quindi la cocaina indubbiamente costa molto meno di un tempo. E io ringrazio Antonio da Torino che ci ha chiamato. Professor Lavecchia, abbiamo detto che avremmo parlato dei danni, ma quanto tempo ci mette la cocaina a fare danni e soprattutto a fare danni percepiti in modo chiaro da chi ne fa uso? Ma ci può mettere anche molto poco, vi sono danni come danni acuti cerebrali, ischemia cerebrale o disturbi del ritmo cardiaco, infarto cardiaco o cerebrale, che possono essere dovuti a singola dose eccessiva, quindi può essere in individui predisposti o che sbagliano dose per colpa loro, per colpa di un taglio non corretto, può essere anche la singola dose che ha un danno drammatico. Dopodiché usi prolungati nel tempo e soprattutto a dosi elevate hanno tutta una serie di effetti che vanno dalla distruzione dell'epitelio, ma non solo dall'epitelio, anche delle cartilagini nasali, quindi grossi problemi di tipo otorinolaringoiatrico, hanno effetti sul rene che sono drammatici, ci sono poi gli effetti sul sistema nervoso centrale con sintomi di epilessia o comunque diminuzione appunto della dopamina, quindi sindromi psichiatrici, estrema stato di inattività. Quindi, e poi ci sono anche sintomi sull'apparato respiratorio, difficoltà respiratorie dovute anche a problemi cardiaci. Quindi un uso di lungo periodo che è ristretto a una proporzione non piccola degli utilizzatori, che per, molto probabilmente, tutte le cifre sono incerte, molto probabilmente più del 10% degli utilizzatori non fa un uso sporadico, ma fa un uso sistematico e con dosi elevate. Questi soggetti hanno rischi nel medio-lungo periodo realmente gravi sulla salute. Però anche la singola dose, se in individuo predisposto e se è una dose eccessiva, può dare danni acuti molto gravi. Siamo tornati, Massimiliano. Sì, eccoci. Io so che tu devi scappare, ma vorrei approfittare di te, perché... Io volevo dire alcune cose. Bravo. E certo, se io ti ho invitato apposta... Nel senso che sono d'accordo un po' con tutti, anche se non... Non completamente. Perché? Non completamente. Secondo me il vero problema è che se si continua a parlare della cocaina come crea disturbi al miocardio, alla circolazione, non si nasconde un fatto che la cocaina è il modus operandi della cocaina è cambiato. Chi usa la cocaina è una persona che lavora e che la usa settimanalmente, due volte a settimana. Ma questo tu non eri in linea con noi, noi l'abbiamo detto che si usa soprattutto il fine settimana, sì, abbiamo già detto tutte... Non gli fa danni, perché il danno non è soltanto la cocaina, il danno è l'alcol, che se bevi tre bicchieri di vino, con la cocaina ne bevi 9, non li senti. Massimiliano, questo noi l'abbiamo già detto, quindi a questo punto sei in linea con i nostri esperti. Abbiamo già affrontato l'associazione coca e alcol, perché prolunga, no, gli effetti, professor Lavecchia. Sì, questo è un fenomeno strano, ma gli effetti di eccitazione sono prolungati dall'uso combinato di alcol, e questa è la ragione per cui le due sostanze vanno insieme. Anche i rischi sono moltiplicati, perché poi questa perdita di controllo è amplificata dall'uso di alcol, e quindi anche i rischi di comportamenti sconsiderati e incidenti sono moltiplicati. Massimiliano, ci vuole un altro film? Ci vuole un altro film, forse, sì, per questo ha avuto una gestazione difficile. Sì, ha avuto una gestazione... Sì, e non poi... vogliono sentir parlare di cocaina, naturalmente. E certo, anche io so che oggi, quando abbiamo affrontato il tema, sarebbe stata una puntata difficile. Devo dire che abbiamo avuto un'ottima risposta dai nostri ascoltatori. Parliamone in termini molto semplici, chiari, con le ricerche alla mano. Grazie per il tuo lavoro, Massimiliano. Grazie. Buona giornata. Andiamo a Nicola, che ci chiama da Torino. Buongiorno, Nicola. Buongiorno a voi, premetto, io ho sempre considerato le droghe delle sostanze da cui bisogna stare lontani, fanno attenzione, soprattutto sono fatte per persone intelligenti. Uno quando assume qualsiasi tipo di droga, in questo caso la cocaina, deve comunque essere consapevole a quello che va incontro. Il problema più grosso è che adesso... Io ho finito la scuola, mi sono diplomato 10 anni fa. Sì. Una volta un po' di educazione civica veniva fatta, così con il rimproverone del professore che dava delle informazioni comunque sui danni che poteva dare. Il problema più grande è che, oltre che si trova a buon mercato, come dicevano gli altri ascoltatori prima, sì. Perché non è più cocaina, in parte pura, tagliata male, tagliata più e più volte... il problema che crea, e la gente non se lo immagina, è quello comunque fisico, perché chi fa uso di cocaina comunque non è ai livelli degli eroinomani, che sono a vista a chilometri, uno se ne accorge, però comunque, conoscendo i sintomi, il fatto di la perdita comunque nel tempo dei denti, comunque problemi fisici proprio nello stato, anche nel viso, il down che dà poi associato dopo. Io come esperienza personale, perché lavorando nell'ambito dei locali notturni la conosce bene. Sì, il fatto certo. Che si associa a parte essere associata all'alcol, perché è il freno, non toglie qualsiasi freno inibitorio, quindi non è soltanto poi comunque più il fine settimana. Una persona esce, vuole fare serata il martedì, il mercoledì, il giovedì, fa serata e si fa di coca. E si compra i suoi 2 o 3 pezzi, si compra i suoi 2 o 3 pezzi. Insomma, questa è una fotografia che ritorna anche nei messaggi, nelle telefonate dei nostri ascoltatori. Ho 2 domande da farvi puntuali. Come cambia la mente di un cocainomane da un punto di vista psicologico? Come lo si riconosce, Alberto? Allora, intanto ha proprio una sregolazione nella sua capacità di controllare gli impulsi, quindi è molto più frequentemente aggressivo, impulsivo, violento e soprattutto non ha la capacità di gestire emozioni di forte intensità che lo possono disorientare, per cui le scarica subito in una modalità che è praticamente pulsionale. Ecco perché possono essere molto pericolosi nelle relazioni familiari e diventare molto aggressivi e violenti con i compagni di vita o con i figli. Nel concreto, ci chiede un ascoltatore, come si può verificare se un soggetto abbia avuto danni da una singola o unica assunzione? Qua. Beh, questo è veramente. Questo non si può dire, ma è veramente, veramente. Ma evidentemente difficile. Gli effetti che ha illustrato il professor Lavecchia sui danni acuti certo. Hanno agitato qualche ascoltatore. Certo, i danni acuti possono esserci, come è stato detto. Tra l'altro, estremizzando questo concetto, varie indagini epidemiologiche hanno evidenziato e stanno studiando come l'aumento di decessi per infarto del miocardio in trentenni, trentacinquenni in Italia possano essere in qualche modo correlato all'utilizzo della cocaina. Ecco, ho estremizzato ma tanto per evidenziare. Abbiamo due minuti e saluto Sandro da Milano pregandolo di essere molto rapido. Grazie Sandro. No, Sandro è bene, cioè mi dispiace, non possiamo sentire Sandro, ma io vorrei approfittare del professor Lucchini per dare anche un po' delle indicazioni pratiche. Come si fa a rivolgersi ad un CERT? Che cosa si deve fare? Quanto tempo è necessario essere seguiti? Come funziona? Ma diciamo che i CERT in Italia sono 550. E pur essendo nati per occuparsi di eroina ormai 30 anni fa, rappresentano delle equipe multidisciplinari, quindi che vanno dal medico, psichiatra, internista, allo psicologo, all'assistente sociale, all'infermiera, all'educatore, ecco, che permettono di affrontare l'insieme dei problemi delle dipendenze. Ogni azienda sanitaria locale ha più di un servizio per le tossicodipendenze, vi sono moltissimi servizi che si sono specializzati proprio nell'accoglienza e nel trattamento di persone che hanno problemi di cocaina. Ai CERT si accede senza nessuna formalità direttamente, le prestazioni sono completamente gratuite, i tempi di accesso sono tendenzialmente brevi. Bisognerebbe aprire un grossissimo capitolo sul trattamento di persone che hanno problemi con cocaina, perché è un trattamento molto particolare, mirato, se vogliamo anche in fase, tra virgolette, sperimentali, perché non abbiamo dei presidi farmacologici assolutamente efficaci, per cui sono dei trattamenti che solitamente vedono una prevalenza di interventi psicologici e psicoterapici uniti anche a fasi residenziali, ad esempio in comunità terapeutiche di carattere breve. Ecco, questi sono i trattamenti che stanno dando i migliori risultati. Trattamenti combinati. Ringrazio il professor Carlo Lavecchia, il professor Alfio Lucchini e Alberto Pellai. Noi ci sentiamo domani dopo il GR delle 11. Buonissima giornata.